Bene, cerchiamo di concludere queste letture dantesche, anche se credo che queste audio lezioni siano ascoltate effettivamente da pochi. Del resto anche le lezioni in presenza le ascoltano in pochi, insomma. Ma bisogna farle per forza, e allora non lasciamo niente di intentato. Allora, canto 27° del Purgatorio, versi 109 e seguenti, solita lettura, così, per frammenti, anche se ragionevolmente estesi. E già per gli splendori antelucani che tanto ai pellegrini surgon più grati, quanto, tornando alberghi a men lontani, le tenebre fuggian da tutti i lati, e il sonno mio con esse, ond'io levami, veggendo i gran maestri già levati. Tipica scena purgatoriale, consueto paesaggio purgatoriale, a cui siamo già abituati, quindi tinte così sfumate, tenui, un po' come in certe miniature medievali, no? Un po' come nelle miniature di Oderisi da Gubbio, delle quali peraltro non ce n'è giunta, non ci è giunta nemmeno una che sia attribuita a lui con certezza, ma comunque, no, tinte sfumate, delicate, tenui, registro stilistico così soave e analogamente lieve, ecco, l'esatto contrario dello stile petroso, no? Così aspro e irto di contrasti che prevale invece nell'inferno. Questi splendori antilucani, cioè quella quasi impercettibile e inafferrabile transizione, no? Dall'aurora all'alba. L'aurora è ancora buia, l'alba invece è quella, diciamo, il momento in cui compare la luce. Questi splendori antilucani colgono mirabilmente questa sottilissima sfumatura paesaggistica fra l'aurora e l'alba. Queste luci dell'alba, che sono tanto più gradite ai viaggiatori quanto meno lontani sono dalla meta. C'è questa immagine del viaggiatore, la stessa immagine che abbiamo trovato all'inizio di un canto, in quel celebre incipit, come al solito non ricordo il numero del canto, ma quel canto che inizia, no? Era già l'ora che volge il disio ai naviganti, con la differenza che in quel caso si trattava del crepuscolo della sera, non del crepuscolo del mattino, ma insomma una identica sfumatura che sembra quasi dissolvere in un unico fluire, in uno stesso divenire, i diversi momenti del tempo terreno, no? L'alba da una parte, il tramonto dall'altra. Le tenebre fuggivano da tutti i lati, quindi, no? Le tenebre si dissipavano e insieme alle tenebre anche il mio sonno. Cosicché io mi alzai, vedendo che le mie due guide, cioè Stazio e Virgilio, si erano già alzati. Quel dolce pome che per tanti rami cercando va la cura dei mortali, oggi porrà in pace le tue fami. Cioè quel dolce frutto che il desiderio dei mortali va cercando per tante vie, oggi soddisferà il tuo appetito. Il dolce pomo è così il frutto del paradiso terrestre, la beatitudo unius vitae, no? La felicità di questa vita, come la chiama Dante nella Monarchia, quella felicità terrena a cui dovrebbe provvedere l'impero, mentre la Chiesa dovrebbe occuparsi della gioia celeste. i due poteri dovrebbero operare, no? I duo luminaria magna, le due grandi luci, due grandi fari, insomma, dell'umanità dovrebbero operare in piena concordia, il potere temporale da una parte, il potere spirituale dall'altra. Virgilio in verso me queste cotali parole usò, e mai non furo strenne che fossero di piacere a queste uguali. Cioè, Virgilio mi porse queste parole e mai nessun dono fu gradito come quelle parole. Tanto volere sopravvoler mi venne dell'essere su che ad ogni passo poi al volo mi sentia crescere le penne, insomma. Avvertivo un desiderio sempre più intenso di compiere quella salita, la metafora del volo. Colei che ha l'alto volo ti vestì le piume, cioè Beatrice. Come la scala tutta sotto noi fu corsa e fummo in sul grado superno, in me ficcò Virgilio gli occhi suoi. Ecco, no, qui c'è l'immagine della scala d'oro, la scala di Giacobbe, immagine biblica che qui ha un valore allegorico, perché questa scala d'oro ovviamente rappresenta l'ascesa dal piano terreno a quello celeste. Il temporal fuoco e l'eterno veduto hai figlio e sei venuto in parte dove io per me più oltre non discerno. Ormai hai visto il fuoco temporaneo e quello eterno, vedete ancora il tempo e l'eterno, in questo caso si allude all'inferno e al purgatorio. L'inferno è comunque un regno eterno, anche se si tratta di una dannazione eterna. Il purgatorio invece è un regno transitorio, temporaneo, anche se comunque di sofferenza, una sofferenza che è così rinfrancata, confortata dalla speranza, o meglio dalla certezza di poter venire quando che sia alle beate genti, dice Dante, no? Veduto hai figlio e sei venuto in parte, ecco, tu hai visto il fuoco dell'inferno e le pene del purgatorio, ma ora siamo arrivati ad un punto in cui io non sono più in grado, oltre il quale io non sono più in grado da solo di guidarti. Virgilio, secondo l'interpretazione canonica, che non so perché nessuno studente ricorda mai, forse perché è banale, quindi, ma l'interpretazione canonica è a mio parere banale, quella che vede in Virgilio la personificazione della ragione, in Beatrice la personificazione della teologia, ma cioè, può darsi che si possa anche interpretare in questo modo. Mi sembra molto più interessante considerare Virgilio il simbolo, la personificazione della cultura classica, Beatrice invece la personificazione di un amore che da terreno diviene celeste, cioè un amore dapprima umano, poi mistico. Quindi è più interessante vedere in Virgilio la cultura classica, in Beatrice l'amore e anche la fede, cioè l'amore terreno, la donna come tramite per arrivare a Dio. Un po' difficile che oggigiorno la donna sia vista come tramite per arrivare a Dio, ma io conoscevo uno che era ateo, sfegatato, si innamorò di una ragazza che invece frequentava, non ricordo se CL o che, insomma, comunque legata ad ambienti religiosi, insomma, fatto sta che questo ragazzo si convertì al cattolicesimo, e poi era felice come una Pasqua perché aveva trovato sia l'amore con questa fanciulla che poi sposò, non so se non so come sia andata a finire, ma forse stanno ancora insieme. Era contento anche perché aveva trovato la fede, insomma, tutta la sua vita era cambiata, quindi non è poi detto che, insomma, a ben vedere non è poi così del tutto assurdo, del tutto inverosimile che uno trovi l'amore umano e quello divino nello stesso tempo, insomma, no? Due piccioni con una fava. Vabbè, comunque, dice il temporal fuoco e l'eterno veduto ai figlio. E sei venuto in parte dove io per me più oltre non discerno. Quindi cosa vuol dire? Beh, si può interpretare Virgilio anche come personificazione della ragione, Questa interpretazione non è inconciliabile con l'immagine di Virgilio come incarnazione della cultura classica, no? Insomma, in ogni caso, la cultura classica, che era ancora priva della rivelazione cristiana, era esclusivamente umana. La cultura classica, sì, secondo Dante, era riuscita proprio con Virgilio a intuire alcuni aspetti della rivelazione cristiana. Il puer della quarta egloga delle bucoliche, come ricorderete, veniva visto dall'allegorismo medievale come una prefigurazione di Cristo, no? C'era un influsso del profetismo orientale, del millenarismo iranico, forse anche del messianismo ebraico, dico in Virgilio. Ma ecco, cosa volevo dire? Sì, la cultura classica riuscì parzialmente ad intuire alcuni aspetti della rivelazione, no? Faceste come quei che va di notte, reca il lume dietro e sé non giova, ma dietro sé fa le persone dotte. Come ricorderete, Dante immagina, forse sulla base di una fonte che a noi è sconosciuta, o forse per propria così, iniziativa, invenzione, comunque immagina che Stazio si fosse convertito al cristianesimo, paradossalmente, leggendo Virgilio. Quindi un poeta pagano che si sarebbe convertito al cristianesimo leggendo un altro poeta che cristiano non era per ovvie ragioni, era pagano ancora, non si sarebbe materialmente potuto convertire al cristianesimo perché morì quando, prima ancora che Cristo, no, fosse crocifisso e poi risorgesse. Quindi insomma, no, questa cultura classica che intuisce qualche aspetto della rivelazione cristiana, ma che non è ancora stato investito dalla piena luce del verbo divino. E allora, ecco, tratto da qui con ingegno e con. Ecco perché Virgilio dice: io con le mie capacità esclusivamente umane, per quanto mirabili, non sono in grado di condurti oltre questo punto, non posso portarti nemmeno nel paradiso terrestre, figuriamoci poi nel paradiso celeste. Là, nel paradiso celeste, la guida sarà ovviamente Beatrice, che peraltro va incontro a Dante, come vedremo già negli ultimi canti del Purgatorio, di là dal muro di fuoco, c'è Beatrice che aspetta Dante, ma che come vedremo gli rimprovererà il cosiddetto traviamento, no? Quel periodo di smarrimento esistenziale e intellettuale che era seguito alla morte di Beatrice. Tratto da qui con ingegno e con arte, questo binomio di ars e ingenium è interessante, no? Physis e techne in greco, no? Natura e tecnica, due concetti importanti nella filosofia, ma anche nella poetica, ovviamente, no? Physis, no? L'ispirazione e la tecnica invece, la tecnica compositiva, o comunque la tecnica, insomma, che è necessaria per qualunque arte e per qualunque attività e anche per qualunque sport, insomma, ci vuole, no? La passione, diciamo, un'inclinazione naturale anche, ma ci vuole anche la tecnica che si acquisisce con grande pazienza, no? Ecco, se avete studiato Lucrezio, c'è quella lettera di Cicerone, in cui Cicerone dice: in Lucrezio ci sono multa lumina ingenii, dice, ma c'è anche multa ars, no? Dice, Multis luminibus ingenii multe tamen artis, se non ricordo male. Cioè, dice nel Delirium Natura di Lucrezio che Dante con tutta probabilità non poté leggere se non a frammenti, se non per qualche brano riportato in qualche florilegio. Comunque Cicerone dice nel Delirium Natura di Lucrezio ci sono molti lumina ingenii, cioè lampi di ingegno, lampi di ispirazione, ma c'è anche molta ars, che potrebbe avere il senso positivo di abilità tecnica, ma anche il senso negativo, la sfumatura lievemente negativa di artificio, cioè di eccessivo intellettualismo, ecco, si direbbe. Quel tamen induce a ritenere che ci sia questa opposizione fra ingenium e ars. Trattato qui con ingegno e con arte, cioè vuol dire con un'inclinazione naturale, con una vocazione innata, una connaturalità affettiva, come si potrebbe dire usando un'espressione teologica, ma anche con arte, cioè con abilità, con consapevolezza. Lo tuo piacere ormai prendi per duce, forse è dell'erte vie, forse è dell'arte. Ecco. Paronomasia fra erte e arte. Dice, ormai prendi pure come guida il tuo stesso piacere, la tua stessa inclinazione, il tuo spontaneo slancio, diciamo. Ormai sei al di fuori delle vie ripide e strette. Arte è evidentemente aggettivo riferito a vie sottintese, un latinismo molto forte, arctus, ecco nel latino, arctus, bellissimo, forse è dell'erte vie, forse è dell'arte, cioè ormai ti sei lasciato alle spalle le vie così ripide, strette, impervie soprattutto dell'inferno, ma anche del purgatorio. Ormai la mia funzione di maestro è finita, ormai puoi camminare con le tue stesse gambe. Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi l'erbetta, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce. Tipico esempio di locus amenus, no? Il locus Amenus, rappresenta il paradiso terrestre, ovviamente, tipico esempio di locus Amenus, è una sorta di. La selva del paradiso terrestre è l'esatto opposto della selva infernale del primo canto, ma anche l'esatto opposto della selva dei suicidi. L'inferno offre due esempi di selve terribili, no? La selva del peccato, o forse più propriamente della ule, della materia bruta, no? Della conoscenza meramente sensoriale, all'inizio dell'inferno, e la selva invece dei suicidi che per asprezza e per oscurità può ricordare proprio la selva del primo canto. Vedi lo sol che in fronte ti riluce, vedi l'erbetta, i fiori e gli arbuscelli che qui la terra sol da sé produce, mentre che vegnan lieti gli occhi belli, cioè mentre aspetti che finché non siano giunti gli occhi belli, cioè Beatrice, no? Il testo non dice finché non arriva Beatrice, ma finché non arrivano gli occhi belli di Beatrice, no? Una figura retorica, una parte per il tutto, una metonimia, o metonimia che dir si voglia, che lacrimando a te venir mi fenno, sederti puoi e puoi andare fra elli. Dice Beatrice, viene indicata con gli occhi belli che lacrimando a te venir mi fenno, cioè quei begli occhi che con le loro lacrime mi indussero a venire a soccorrerti. Ricorderete che Beatrice aveva all'inizio dell'inferno, incontrato Virgilio, cioè era andato a chiamare Virgilio nel limbo affinché andasse ad aiutare il povero Dante che si era smarrito nella selva oscura. Sederti puoi e puoi andare tra elli, non aspettarmi, o Dio, più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora, cioè sarebbe un errore non fare a suo cenno, cioè non seguire le indicazioni del tuo libero arbitrio, perché io te sovra te corono emitrio, cioè io ti nomino signore di te stesso. Bellissimo, questo dovrebbe fare un vero maestro e anche un vero padre. Virgilio è definito anche, no, Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute vieni. Insomma, rendere il discepolo veramente libero e veramente capace di decidere autonomamente della propria vita. Ecco, no. Dante che viene incoronato signore sovrano di se stesso, ecco, perché io te sovra te corono emitrio. Fra l'altro, no, la corona è segno dell'autorità temporale, la mitria dell'autorità spirituale, quindi questa dittologia corono emitrio suggerisce sempre quella simbiosi, quella fusione di potere temporale, potere spirituale, impero e chiesa, ma anche tempo ed eternità, che è un po' la cifra essenziale dell'opera, del poema, insomma, dantesco. Beh, canto 28, verso 22. Qui c'è la figura di Matilda, la enigmatica figura di Matilda, che non si sa bene chi o che cosa rappresenti, non c'è mai riuscito nessuno a capirlo, probabilmente è soltanto una figura poetica, una figura allegorica. Giovanni Pascoli, in un brano che, se mi ricordo, metterò anche in rete, immaginava che Matilda fosse la personificazione dell'arte. Arte intesa come fusione di componente ideativa e componente operativa, cioè da un lato l'idea, l'ispirazione, la concezione, dall'altro lato l'attuazione tecnica di quell'idea. Quindi ancora quel binomio, se vogliamo, di ingenium e ars, di physis e techne, di cui abbiamo parlato. Ad ogni modo, canto 28, versi 22 e seguenti. Già m'avean trasportato i lenti passi dentro la selva antica, tanto ch'io non potea rivedere ond'io mi intrassi. Questa è la selva della foresta del paradiso terrestre, che è ovviamente l'opposto della selva oscura infernale. Quindi già i lenti passino, passi tardi e lenti, dirà Petrarca in tutt'altro contesto. Già mi avevano trasportato i lenti passi dentro la selva antica, tanto che io non potrei vedere un Dio mi entrasse. Già i miei passi lenti mi avevano trasportato dentro la selva antica, l'antica foresta, a tal punto che io non potevo rivedere il punto in cui ero entrato. Ed ecco più andarmi tolse un rio che in ver sinistra con sue picciole onde piegava l'erba che in sua ripa uscio. Ed ecco che mi impedì di proseguire oltre un ruscello che verso sinistra, con le sue piccole onde, piegava l'erba che spuntava sulla sua riva. Tutte l'acque che son di qua più monde parriano avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde. Avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole ivi né luna. Tutte le acque che qui sembrano più pure parrebbero avere in sé una qualche impurità, una qualche sporcizia a paragone di verso di a paragone di quell'acqua che non nasconde nulla, che lascia trasparire tutto, sebbene scorra ombreggiata sotto la perpetua ombra di questa selva, che non lascia mai filtrare, mai passare sole né luna. Si tratta di una selva eterna in cui non si vedono il sole e la luna che scandiscono il divenire, il succedersi dei giorni terreni. No? Quindi qui c'è il paradosso di quest'acqua che è perennemente buia, perennemente ombrosa, ma nello stesso tempo è anche trasparente e lascia vedere tutto. Quindi no, questa condizione ossimorica di un'ombra che però è trasparente, no? Una sorta di ombra liquida, fluida, che però nello stesso tempo è un'ombra trasparente, che lascia vedere tutto, un po' come se il mistero divino, no? In questo contesto si mostrasse in piena luce, insomma, un mistero in piena luce, come diceva un grande scrittore cattolico, no? Peggy. Ma ora dice: coi piedi stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione de freschi mai. Bellissimo questo verso, è rimasto celebre, è un'immagine molto preziosa, perché i mai sono, cioè sarebbe il plurale di maggio, non è mai, avverbio di tempo, questo sarebbe il plurale di maggio, ma nel senso dei fiori, cioè dei freschi mai vuol dire dei freschi fiori. Quindi mi fermai, arrestai il mio cammino e con gli occhi passai al di là, gettai lo sguardo al di là del fiume per contemplare la grande variazione, cioè la grande varietà cromatica dei freschi fiori. E là m'apparve, siccome gli appare subitamente cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia cantando e discegliendo fior da fiore, onde era pinta tutta la sua via. E là mi apparve, così come appare improvvisamente, una cosa che distoglie per lo stupore un pensiero completamente diverso, una donna sola che andava cantando e scegliendo fior da fiore, di cui era dipinta tutta la sua via. No, la fanciulla, insomma, lo sguardo di Dante viene catturato da questa bella fanciulla misteriosa che coglie fior da fiore, sceglie fior da fiore. Cioè, compone una corona o un mazzo di fiorellini scegliendoli accortamente. L'immagine ricorda quella della primavera che si trova in Lucrezio, che però Dante con tutta probabilità non leggeva, e si trova anche in Claudiano, ad esempio, in Ovidio. L'immagine della primavera di Persefone, di Proserpina. Dai, bella donna che a raggi d'amore ti scaldi, si vuoi credere ai sembianti che sogliono essere testimoni del core, vegnati in voglia di trarreti avanti, diss'io a lei, verso questa riviera, tanto che io possa intendere che tu canti. Quindi or su, bella donna, che ti scaldi così ai raggi dell'amore, cioè del pianeta Venere. Se io voglio credere ai sembianti che sogliono essere, cioè se io devo credere all'aspetto che è solito essere testimone del cuore, cioè l'aspetto esteriore che solitamente lascia trasparire i sentimenti, per favore avvicinati, avanza verso questa parte, verso questa riva, così che io possa intendere, sentire bene le parole che tu canti. Tu mi fai rimembrare dove e qual era Proserpine nel tempo che perdette la madre lei e della primavera. Se cioè, tu mi fai ricordare, mi fai venire in mente Proserpine nel tempo in cui, nel momento in cui Plutone la rapì. No, pattuendo poi con la madre che Persefone avrebbe trascorso 6 mesi sulla terra e 6 mesi negli inferi, no? E quindi primavera ed estate, quando Persefone era sulla terra, autunno ed inverno, quando invece era agli inferi. Straordinario mito che fonde amore, morte, vita, morte, risurrezione, l'idea della perpetua rigenerazione della natura, insomma, mito, grande mito classico, no? Di palingenesi, diciamo. Come si volge con le piante strette a terra dintra sé donna che balli e piede innanzi piede appena mette, volsesi in sui vermigli ed in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avalli. E fece i prieghi miei esser contenti, sì appressando a sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. Quindi un po' come una donna che si volge con le piante strette, cioè con i piedi ravvicinati o molto aderenti a terra, e sembra chiudersi su se stessa e mette appena un piede davanti all'altro, insomma. Qui viene, ecco, la danza di Matilda, il passo che esattamente compie Matilda, è molto difficile da descrivere, non si sa esattamente che tipo di danza fosse, anche perché noi non abbiamo trattati sulla danza contemporanei a Dante. I più antichi trattati sulla danza sono del XV secolo. Quindi riuscire a capire esattamente di che danza si tratti è quasi impossibile. Ad ogni modo si è ipotizzato che qui si tratti di qualcosa di simile alla cosiddetta bassa danza. Ecco, la bassa danza, tutto attaccato, era una danza antica che veniva eseguita con questi passettini molto rapidi, con i piedi ravvicinati, passettini molto rapidi, leggeri, no? La danzatrice sembrava sfiorare appena il suolo e fare una specie di inchino, no? Ripiegandosi su se stessa, come in una sorta di omaggio, evidentemente, a un'altra danzatrice. La bassa danza era una specie di dialogo gestuale fra due danzatrici. Sarebbe molto utile poter capire esattamente a quale tipo di danza Dante facesse riferimento. Si tratta di un passo che si trova molto simile nel minuetto, ma ai tempi di Dante non c'era, o meglio, insomma, non siamo certi che il minuetto fosse uguale a quello che si affermò poi nei secoli successivi. Quindi non si saprà mai esattamente quale fosse la danza di Matilda, e sarebbe molto utile saperlo. Ad ogni modo, dice, volsesi sui vermigli e sui gialli fioretti, insomma, quindi si volse sui fiori vermigli e gialli, sui fioretti vermigli e gialli verso di me, non diversamente da una vergine, da una fanciulla che abbassi a valli lo sguardo pudico, gli occhi onesti, nel senso, come tanto gentile e tanto onesta pare. Ovviamente questa rappresentazione ricorda molto il Dulce Stil Novo, come atmosfera, come tono, no? Per esempio, questa idea di grazia, di soavità, di misura. E fece i prieghi miei essere contenti, sì appressando sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. E come si dice, esaudì la mia preghiera, avvicinandosi in modo tale che il dolce suono delle sue parole giungeva fino a me insieme ai significati delle parole, cioè io riuscivo a sentire, a capire le parole che stava cantando, ma Dante non ci dice quali, di fatto le parole del canto di Matilda rimangono enigmatiche, è così puro suono, un roman sans parole, come dirà nell'Ottocento Verlaine, insomma, tosto che fu là dove le erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Quindi non appena si trovò, fu giunta là dove le erbe sono già bagnate dalle onde del leggiadro, dell'amabile fiume, mi fece la cortesia di alzare lo sguardo verso di me. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia Venere, trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Non credo che fossero altrettanto splendenti gli occhi di Venere quando la stessa Venere si innamorò, dopo essere stata punta per errore dall'amore con le sue frecce. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più coloro con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Quindi sorrideva dall'altra riva, maneggiando più fiori che la terra del paradiso terrestre produce senza seme, cioè spontaneamente, senza essere stata seminata. Questa donna è per l'appunto Matilda, la misteriosa Matilda che alcuni hanno identificato con Matilde di Canossa. Questo perché Matilde di Canossa favorì la riconciliazione fra il Papa e l'imperatore, quindi potrebbe ben rappresentare questa concordia fra potere imperiale e potere ecclesiastico, fra potere imperiale, cioè potere ecclesiastico, che Dante avrebbe desiderato. Si è pensato che Matilda possa alludere nel nome a delle grandi mistiche medievali, Matilde di Magdeburgo, ad esempio, che scrisse un trattato, La luce fluente della divinità, in cui compare l'immagine del fiume di luce che si ritroverà nel paradiso. Si è pensato anche a un'altra Matilde, un'altra santa che si chiamava sempre Matilde, ma l'identificazione è meno probabile, o forse ad una personificazione della mazesis, cioè della conoscenza, della sapienza. In questo senso Pascoli, appunto Giovanni Pascoli, che fu anche un ingegnoso dantista, dava un'interpretazione molto ingegnosa, sostenendo che Matilda fosse una personificazione dell'arte, intesa come fusione di vita attiva e vita contemplativa, di concezione e realizzazione. Matilda canta e nello stesso tempo sceglie fior da fiore, canta, danza e nello stesso tempo sceglie fior da fiore. Fra l'altro questa idea dello scegliere fior da fiore alludeva proprio poteva alludere, insomma, alla creazione poetica, perché c'era questa idea del poeta che come un'ape va di fiore in fiore, cioè si nutre, attinge a diversi modelli, e da tutti questi modelli diversi, alla fine riesce a ricavare il proprio prodotto originale. Beh, insomma, è questione di interpretazioni, forse non se ne verrà mai a capo, a meno che non si trovi una qualche fonte sconosciuta. Allora, canto 30° del Purgatorio. verso 22, versi 22 e seguenti. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata, e l'altro ciel di bel sereno adorno, e la faccia del sol nascere ombrata, sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Quindi io vidi già al principio del giorno l'oriente, la parte orientale del cielo tutta rosea, e il resto del cielo tutto adorno di puro azzurro, e vidi anche sorgere il volto del sole velato di ombra, tanto che grazie alle nuvole che attenuavano la luce del sole, l'occhio riusciva a reggere quella luce per lungo tempo. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Quindi così in una nube di fiori, e qui Petrarca si ricorderà questa immagine, la canzone, chiare, fresche e dolci acque, no? L'immagine della nuvola di fiori, che anche se in un contesto non più allegorico, in un contesto interamente terreno, anzi quasi mondano, gotico, diciamo, no? Decorativo, insomma. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro di fuori. Ecco, si è notato che qui Beatrice appare vestita di bianco, rosso e verde, no? Il verde, colore della speranza, il bianco, colore della purezza, e il rosso, che è il colore dell'amore, ovviamente un amore mistico, ma anche il colore del sacrificio, il sangue di Cristo, la sobria ebrietas del sacrificio cristiano. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato, che alla sua presenza non era di stupore, tremando, affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse d'antico amor sentì la gran potenza. Quindi il mio spirito, che già per tanto tempo era stato sul punto di dissolversi, di svenire, di venir meno, ecco, di fronte alla presenza così fulgida di Beatrice, senza riuscire più a distinguere chiaramente la sua figura con gli occhi, con la vista, per un occulto potere, per un potere quasi magico che si sprigionava dalla sua persona, sentì la grande potenza dell'antico amore. No, e qui c'è un eco virgiliano, no? Agnosco veteris vestigia flamme. I versi di Virgilio vengono citati, riecheggiati proprio alla lettera di lì. Poco, no, l'amore di, diciamo, di Didone, che sente ridestarsi dentro di sé l'amore avendo incontrato Enea, e analogamente qui Dante, che sente nuovamente il fuoco dell'amore giovanile vedendo Beatrice, anche se sono due contesti completamente diversi, perché è comunque significativo che qui Dante si identifichi con Didone, cioè si identifichi di fatto con una donna, perché evidentemente nella sua sensibilità c'è qualcosa di, anche di femmineo, cioè di delicato, di vibrante, di vulnerabile, se vogliamo. Ecco, dice: tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'aveva trafitto prima che io fuor di puerizia fosse. Quindi volsimi alla sinistra, col rispitto col quale il fantolin corre alla mamma, quando ha paura o quando egli è afflitto. Per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ecco, agnosco veteris vestigia flamme. Virgilio, quindi non appena mi colpì nello sguardo quel grande potere, quella grande virtus, insomma, che già mi aveva colpito prima che io fossi uscito dalla puerizia, dall'infanzia. E qui viene rievocato il primo incontro con Beatrice, narrato nella Vita Nuova. Mi volsi alla mia sinistra con il timore con cui il fantolino, cioè il fanciullo, corre alla mamma quando ha paura o quando è addolorato, per dire a Virgilio: non mi è rimasto nel sangue, non mi è rimasto. Non mi è rimasta nemmeno una goccia di sangue che non trimi, ecco, mi sento tremare il sangue nelle vene, insomma. Conosco i segni dell'antica fiamma, sento di nuovo dentro di me i segni dell'antico amore. Ma Virgilio ne aveva lasciati scemi di sé, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi. Ma Virgilio ormai ne aveva lasciati scemi di sé, che vuol dire ci aveva lasciato privi della sua presenza, della sua vicinanza. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui mi diedi, mi affidai per la mia salvezza. Né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lacrimando non tornasse ratre. Né quantunque perdeo l'antica madre, che vuol dire, sì, eccola, l'antica madre è Eva. E qui c'è un'altra eco virgiliana, significativa, antiquam exquirite matrem, no? Andate alla ricerca dell'antica madre. Lì l'antiqua mater è la madre terra, insomma, la magna mater, cioè andate alla ricerca di una patria. Invece qui l'antica madre è Eva, cioè la prima donna. C'è comunque un grande richiamo agli archetipi, all'origine, no? Né tutto ciò che Eva mandò in rovina, fece perdere all'umanità, cioè qui si allude alle gioie del paradiso terrestre, furono sufficienti ad impedire che le mie guance, purificate dalla rugiada, non divenissero nere, atre. Diciamo, la perdita di Virgilio riempie Dante di dolore, anche se si trova nel paradiso terrestre e ha appena incontrato Beatrice. Dice Dante: perché Virgilio se ne vada, non piangerà ancora, non piangerà ancora, che pianger ti convien per altra spada. Dice Dante: anche se Virgilio se ne va, non piangere ancora, perché dovrai piangere per un'altra spada, vuol dire ora Beatrice ti rimprovererà per il tuo traviamento, no? Per il tuo traviamento, l'enigmatico periodo di traviamento di Dante, seguito alla morte di Beatrice, non si sa esattamente di che cosa si tratti, forse di un periodo di smarrimento morale in cui Dante aveva iniziato a condurre una vita dissoluta, ad andare in giro per le taverne, forse si era messo a giocare d'azzardo, si era dato all'alcol, chi lo sa, ma molto più probabilmente si tratta di uno smarrimento intellettuale, cioè un eccessivo intellettualismo, un eccessivo attaccamento alla filosofia, alla speculazione filosofica, che forse gli aveva fatto dimenticare l'amore mistico, quindi un allontanamento dall'amore mistico, dalla fede, insomma, per avvicinarsi eccessivamente alla filosofia, forse con venature averroistiche, quindi di eccessivo razionalismo e anche di dubbi riguardanti l'immortalità dell'anima individuale. In questo senso c'è questo antagonismo quasi indiretto fra Beatrice e Guido Cavalcanti, l'amico, prediletto di Dante, averroista, loico, sospettato di ateismo addirittura, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno, no? Beatrice viene definita nell'inferno, no? Gli epicurei dell'inferno, no? Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno, ecco. Quel verso potrebbe riferirsi sia a Virgilio che a Beatrice, ma insomma allude in ogni caso alla contrapposizione fra l'averroismo, cioè il razionalismo e il materialismo di Cavalcanti, e invece la teologia, l'amore mistico rappresentati da Beatrice. Canto 32° del Purgatorio. Sola sedeasi in sulla terra vera, come guardia lasciata lì del plaustro che le garvidia la biforme fiera. Ecco, qui compaiono versi di grande complessità. Insomma, Dante assiste ad una sorta di processione allegorica, vede un carro allegorico, detta così sembra che si parli del carnevale di Viareggio, ma insomma, un carro che fra l'altro si trasforma ai suoi occhi in modo molto, molto strano, insomma, un po' come insomma, quando ero bambino io c'erano i robot Transformer, non so se esistono ancora, ma insomma, questi robot che si trasformavano, questi giocattoli, insomma, che erano questi affari, insomma, questi robot che si trasformavano in un'astronave, in vari aggeggi. E allora questo carro, per capirci, è una specie di robot transformer, insomma, che in modo molto complesso rappresenta comunque le vicende, o meglio le vicissitudini della Chiesa nei suoi difficili rapporti con l'impero, non solo con l'impero, diciamo con il potere politico, con il potere temporale, cioè sia con l'impero che con i re di Francia, insomma. Quindi va bene, vediamo versi 94 e seguenti del canto 32°. Sola sedeasi in sulla terra vera, come guardia lasciata lì del plaustro che le garvidi alla biforme fera. Quindi sedeva sola sulla terra come guardia lasciata lì, guardia del plaustro, cioè del carro che vidi legare alla biforme fera, cioè ad un grifone che rappresenta Cristo, mentre questo carro ha un timone che però si trasforma nell'albero maestro di una nave e rappresenta allegoricamente la croce di Cristo. Quindi, insomma, una volta una mia alunna molto arguta mi disse: ma cosa si era fumato Dante quando rappresentò questo carro? Insomma, molto probabilmente una visione onirica che lui aveva avuto, insomma, erano immagini che lui aveva avuto, penso, durante un sogno, no? Un sogno molto, uno di quei sogni strani, per cui uno prima è in un posto, poi in un altro, poi sta con una persona, poi con un'altra, insomma, tutto un casotto e non si capisce più niente. Probabilmente tutte queste cose le aveva viste in sogno, insomma, e poi aveva dato una interpretazione allegorica. Purtroppo per noi, che a capirci qualcosa qui facciamo veramente molta fatica, ma insomma, in cerchio le facevano di sé claustro le sette ninfe con quei lumi in mano che sono sicuri da Quirone ed Austro. Claustro nel senso di claustrum, cioè di difesa, protezione. Insomma, intorno a questo carro erano schierate queste sette ninfe con in mano delle luci che nessun vento può spegnere. Chi saranno queste misteriose ninfe? Saranno state sicuramente bellissime, ma con tutta probabilità, essendo sette, potrebbero rappresentare le sette virtù o i sette doni dello Spirito Santo, più difficilmente le sette arti liberali. Qui saranno le sette virtù, no? Le quattro cardinali, le tre teologali. Qui sarai tu poco tempo, Silvano, e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Qui è più chiaro il senso, insomma, qui dice Beatrice a Dante, tu soggiornerai per breve tempo, Silvano, bellissimo, cioè, abitatore di questa selva del paradiso terrestre, poi sarai insieme a me eternamente cittadino di quella Roma onde Cristo è romano. La Roma onde Cristo è romano è il paradiso. Il paradiso qui viene paragonato all'impero romano, no? Il paradiso è paragonato all'impero perché nella visione provvidenzialistica di Dante anche la grandezza dell'impero romano era funzionale all'avvento del cristianesimo, insomma c'era questo disegno, questa sorta di economia della storia, insomma. Però in pro del mondo che malvive al carro tieni or gli occhi e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive. Dice, perciò in pro, cioè a beneficio, a favore del mondo che vive nel peccato, ora guarda bene il carro e tornato sulla terra fa in modo di scrivere dettagliatamente quello che vedi. Dante riceve più volte una investitura poetica, no? Cioè viene incaricato proprio da vari personaggi di essere scriba dei, ecco, no? Scriba di Dio, cioè testimoniare di questa visione. Così Beatrice, e io che tutto ai piedi dei suoi comandamenti era divoto, la mente, gli occhi ov'ella volle diedi. Dice così Beatrice, e io che ero tutto devoto, tutto dedito, insomma, a seguire le sue indicazioni, rivolsi la mente e lo sguardo dove ella volle. Non scese mai con sì veloce moto fuoco di spessa nube quando piove da quel confine che più va remoto, come io vidi calar l'uccel di Giove, cioè l'aquila, per l'alber giù, rompendo della scorza, nonché dei fiori e delle foglie nuove, e ferì il carro di tutta sua forza, onde il piegò come nave in fortuna, vinta dall'onda, or da pioggia, or da poggia, or da orza. Insomma, dice, non vidi mai un lampo, o meglio un fulmine, scendere così rapido da una nube, come io vidi l'aquila abbattersi sull'albero maestro di questo carro, che era anche una nave, però, rompendo della scorza, nonché dei fiori e delle foglie nuove, cioè praticamente distruggendo interamente questo albero, che era il timone, ma anche l'albero maestro, ma anche un'allegoria della croce di Cristo, insomma, simultaneamente ci sono diverse immagini, proprio come in un sogno, no? Capita in un sogno di vedere una persona che però è anche un'altra, e anche un'altra ancora, insomma, tre persone, due in una, nella stessa figura, insomma, non si capisce bene alla fine, dopo che uno si è svegliato, chi abbia sognato realmente. E ferì il carro in tutta sua forza, quindi cosicché il carro si piegò come una nave nella tempesta, che ora da una parte, ora dall'altra viene sopraffatta dalle onde. Questa immagine del carro dello Stato era, beh, qui non è il carro dello Stato, ma insomma il carro allegorico che rappresenta una qualche istituzione, insomma, non era un'immagine del tutto nuova, perché la nave dello Stato in preda una nave della città, insomma, in preda della polis o dell'impero, del regno, insomma, in preda alle onde, era un'immagine antica che si trovava ad esempio in un'ode di Orazio, che potrebbe essere l'antecedente diretto. Ma dice, poscia vidi avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna. Dice, poi vidi avventarsi sul, cuna vorrebbe dire culla, ma qui sarebbe il fondo, vabbè, del veicolo trionfale, perché questa è una processione trionfale, un po' come i trionfi dell'antica Roma. Una volpe che sembrava ignorare qualunque pasto benefico, questo animale, simbolo della furbizia maligna, diciamo. Ma riprendendo lei di là i decolpe, la donna mia la volse in tanta futa quanto sofferesse l'ossa senza polpe. Dice, ma rimproverandola per le sue laide, per le sue spregevoli, luride colpe, la donna mia, cioè Beatrice, la fece fuggire in tutta fretta, per quanto potevano sopportare quelle ossa senza carne, cioè questa volpe era una volpe famelica, un po' come la lupa del primo canto dell'inferno. A che cosa alluda questa volpe? Che cosa rappresenti? È un po' difficile da capire, sicuramente la volontà di combattere non con la forza e non in modo leale, ma con l'inganno, con la finzione. C'è in Cicerone quell'immagine che poi si ritroverà in Machiavelli, no? Quell'immagine celebre del leone e della volpe, no? Cioè, si può combattere con la forza come fa il leone, ma anche con l'inganno come fa invece la volpe. Machiavelli dirà, il principe deve essere golpe, deve saper essere golpe e leone, cioè deve saper essere volpe, ma anche leone, saper usare la forza brutta, ma anche l'astuzia e, se necessario, anche l'inganno. Dice: poscia per indi, ond'era pria venuta, la guglia vi discendere giù nell'arca del carro, lasciar lei di sé penuta. E poi vidi l'aquila per la stessa via per la quale era venuta discendere nell'arca, che era trasportata su questo carro. Evidentemente si tratta dell'arca, l'arca dell'alleanza, no? L'arca che rappresenta il messaggio divino, che contiene il messaggio divino, e lasciare le proprie penne su quell'arca. Altra immagine onirica davvero strana, insomma, l'aquila che lascia le proprie penne all'arca, e l'arca diventa un'arca penuta. Per una sorta di fusio, l'aquila rappresenta emblematicamente il potere imperiale, no? L'uccello di Giove, e l'arca invece rappresenta il messaggio divino, no? L'arca dell'alleanza, quella che contiene le tavole dei 10 comandamenti. Probabilmente questa fusione allude proprio ad una conciliazione possibile fra il potere spirituale e quello politico. E qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse: o navicella mia con mal se carca, dice. Ed uscì dal cielo una voce addolorata, come quella che esce da un cuore che si rincresce, che si duole, e disse queste parole: o navicella mia, come sei mal caricata. Cioè questa fusione, questa contaminazione fra il potere temporale e il potere spirituale non è qualcosa di positivo, i due poteri dovrebbero restare distinti. Poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote e vidi uscirne un drago che per lo carro sulla coda fisse. Ci mancava solo il drago, dice. Poi mi sembrò che si aprisse improvvisamente la terra in mezzo alle ruote del carro e ne vidi uscire un drago che conficcò la propria coda nel carro. Quindi ci mancava il drago qua sopra. E come vespa che ritragge l'ago, a sé traendo la coda maligna, trasse dal fondo e gisse in vago vago. Cioè questo carro diventa una specie di vespa con il pugiglione, cioè il drago che pianta la propria coda sul fondo del carro, e il carro diventa una specie di vespa con questo pugiglione enorme, insomma. Una immagine anche spaventosa, insomma. Capita di fare dei sogni molto brutti in cui si vedono questi insetti schifosi, insomma, delle cose orrende. Insomma, a me capita, spero che a voi non capiti, ma insomma, questa è un'immagine. Questo era sicuramente un sogno che lui aveva fatto, e a cui poi attribuì, secondo l'uso medievale, questo strano significato allegorico. quel che rimase come da gramigna vivace terra della piuma offerta, forse con intenzione sana e benigna, si ricoperse e funne ricoperta, e l'una e l'altra rota e il temo intanto che più tiene un sospiro la bocca aperta. Dice, tutte le piume che erano rimaste, che forse erano state offerte con intenzione sana e benevola, ricoprirono l'una e l'altra ruota il timone del carro in un battibaleno, cioè nel tempo di un sospiro. Dante dice che forse inizialmente il potere politico aveva anche buone intenzioni quando voleva fiancheggiare il potere religioso e viceversa, ma in un secondo momento questo binomio, questo connubio fra i due poteri era diventato nocivo. Dice allora, trasformato così il edificio santo, mise fuor teste per le parti sue, tre sovra il timo e una in ciascun canto, dice. Trasformato così l'edificio sacro della chiesa, mise fuori tre teste sul timone e una su ciascuno dei lati. Le prime erano cornute come bue, ma le quattro un sol corno avevano per fronte. Simile mostro visto ancor non fue. Quindi le prime erano cornute come quelle di un bue, ma le quattro, quindi qui bisogna fare un po' di calcoli, perché non tornano i conti, ma in matematica non sono mai stato un fenomeno. Scusa, ma le quattro un sol corno, quindi le prime erano cornute come quelle di un bue, ma le altre quattro avevano un solo corno sulla fronte. Non si vide mai un mostro come questo, e ci credo, perché insomma, qui l'interpretazione allegorica è ovviamente, come al solito, piuttosto contorta, ma qui c'è una allusione alla donazione di Costantino che Dante riteneva autentica e che, secondo la tradizione, avrebbe dato inizio al potere temporale della Chiesa. Come sapete, poi nel Rinascimento, nel periodo umanistico, Lorenzo Valla dimostrò la falsità di quella donazione, ma i rapporti fra i due poteri, le contaminazioni, anche le interferenze fra i due poteri, perdurarono ancora a lungo. Ecco, qui c'è la celebre immagine apocalittica, no? Sicura quasi rocca in alto monte, seder sovresse una puttana sciolta, ma parve con le ciglia intorno pronte. Ecco, questa è l'immagine più terrificante, cioè è anche più blasfema, cioè la Chiesa cattolica, la Chiesa corrotta del tempo di Dante, che viene rappresentata come una puttana sciolta, cioè una puttana sfrenata, senza freni, senza ritegno. Mi apparve con le ciglia intorno pronte, cioè mi apparve con uno sguardo di seduzione, con uno sguardo lascivo. E come perché non gli fosse tolta, vidi di costa lei dritto un gigante. E baciavansi insieme alcuna volta. Accanto alla puttana sciolta c'è un gigante che la bacia. Questo gigante con tutta probabilità allude ai re di Francia, in particolare a Filippo il Bello, con tutta probabilità, colpevole di avere fra l'altro tramato contro l'ordine dei Templari, per il quale Dante invece nutriva una profonda empatia. Ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo in fin le piante. Quel feroce drudo, cioè drudo è un termine quasi volgare, molto realistico, insomma, che indica l'amante, ma allude ad un amorazzo così passionale, a una tresca, insomma, non è un termine nobile, ecco, questo drudo. La flagellò dal capo fino alle piante, dalla testa ai piedi. Poi di sospetto pieno e di ira crudo disciolse il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nova belva. Poi pieno di sospetto e crudele di ira, sciolse il mostro e lo condusse con sé per la selva, tanto che soltanto quella selva, cioè la foresta del paradiso terrestre, mi fece scudo, cioè mi protesse dalla vista della puttana e della nuova belva, cioè della bestia straordinaria, spaventosa, insomma, no? La selva del paradiso terrestre che rappresenta il bene, divide Dante da questa visione così allucinante, da film dell'orrore, insomma. Allora, canto 33esimo, versi 25 e seguenti, ce la faremo, insomma. Come a coloro che troppo reverenti dinanzi a suo maggior parlando sono, che non traggono la voce viva ai denti, avvenne a me, che sanza intero suono incominciai. Madonna mia bisogna voi conoscete, e ciò che ad essa è buono. Ma no, questa parte la saltiamo. Canto 20, canto 33esimo, andate direttamente al verso 115. O luce o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e sé da sé lontana? Per cotal priego detto mi fu, priega Matelda che il ti dica. Ecco, Matelda, la donna che cantava e sceglieva fior da fiore, che abbiamo già incontrato precedentemente. Qui è lei che deve rivelare la natura di questo fiume, quindi o luce o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si sprigiona, insomma, da una sorgente e allontana sé da sé stessa, quindi intraprende il proprio corso. Per cotal priego detto mi fu, per questa preghiera mi fu detto, prega Matilda che te lo dica. E qui rispose, come fa chi da colpa si disliga, la bella donna. Quindi qui rispose con umiltà e con cortesia, un po' come, insomma, quasi come qualcuno che cerca di discolparsi, la bella donna, cioè appunto Matilda. Questo e altre cose dette lì son per me, e sono sicura che l'acqua di te non gliel nascose, dice. Questo e altre cose gli sono state dette da me e sono sicura che l'acqua di lite, cioè l'acqua che dà l'oblio dei peccati, non glielo nascose, non cancellò questa memoria. E Beatrice, forse maggior cura che spesse volte la memoria priva, fatta la mente sua negli occhi oscura. Dice, forse una maggiore preoccupazione che spesso cancella la memoria. O diciamo offusca temporaneamente la memoria, ha reso la sua memoria, fatta la mente sua negli occhi oscura, cioè forse ha oscurato lo sguardo della sua mente. Ma vedi, e uno è che la diriva, menalo adesso, e come tu sei usa, la tramortita sua virtù ravviva. Dice, ma vedi là il fiume, e uno è che spunta là. Conducilo a quel fiume e, come tu sei solita fare, ravviva la sua facoltà conoscitiva che è stordita. Come anima gentil, beh, insomma, dopo il sogno che aveva fatto, insomma, ci credo che insomma, era un po' così turbato. Allora, come anima gentil che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che è per segno fuor dischiusa, così poi che da essa preso fui, la bella donna mossesi, e Astazio donnescamente disse, vien con lui. Quindi come un'anima gentile che non rifiuta di rispondere ad una domanda che le viene rivolta, ma fa propria la voglia altrui, cioè aderisce al desiderio di conoscenza dell'interlocutore. Non appena quel desiderio di conoscenza si è manifestato, così, dopo che fui preso per mano da costei, la bella donna si mosse e con grazia donnescamente disse a Stazio, vieni con lui. Se io avessi lettor più lungo spazio da scrivere, io pur canterei in parte lo dolce ber che mai non m'avria sazio. Quindi, se io, lettore, avessi più lungo spazio, cioè uno spazio più ampio di cui, insomma, per scrivere, io riuscirei a descrivere, a cantare soltanto in parte quel dolce bere che non mi avrebbe mai saziato, di cui non sarei mai stato sazio. Ma poiché ormai sono già piene tutte le pagine preparate, predisposte per questa seconda cantica, non mi lascia più procedere l'offrende l'arte. Questa espressione è rimasta proverbiale. L'offrende l'arte vuol dire l'arte è anche senso della misura, non dire troppo, non superare il limite che ci si è prefissato, insomma, che è stato tracciato. Cioè, la perizia artistica è anche senso del limite, il freno dell'arte. Ecco. Non voglio dire di più, lascio solo immaginare questo dolce bere che mai non m'avria sazio, il fiume Leta, il fiume dell'oblio, che consente di dimenticare il male che si è fatto, i peccati che si sono compiuti. Mentre l'eunoè è il fiume, no? Della buona disposizione di spirito, eu e nous, noeo, no? Quindi bisogna dimenticare il male e volgersi al bene. Beh, questo sì, questa è un'ottima massima di vita. Allora, dice, io ritornai della santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, pure disposto a salire le stelle. Versi splendidi, novelle rinnovellate, novella, cioè questa idea rifatto, insomma questa idea così ripetuta, reiterata, di rinnovamento, di palingenesi, di catarsi, insomma. Quindi tornai dalla santissima onda del fiume, rifatto, rinato come, no? Come piante novelle rinnovellate di novella fronda, cioè su cui sono appena spuntate nuove foglie. Il dolce stil novo, la vita nuova, no? C'è questa idea continua di rinnovamento, di palingenesi. Non è ancora l'idea umanistica della renovatio studii, sebbene questa idea di renovatio studii e di renovatio imperii ci fosse già nella cultura medievale, già nella scuola palatina, quindi Carlo Magno, ma anche Ottone III. Questa idea di renovatio imperii che era legata ad una renovatio studii, quindi l'idea di una rinascenza, insomma, c'era già nella cultura medievale, anche prima del Rinascimento, ma qui probabilmente è solo l'idea così religiosa e nello stesso tempo esistenziale di una palingenesi, di una rinascita, insomma, no? Un po' come quando banalmente si dice mi sento rinato. Beh, banalmente, poi magari, banalmente, mica tanto banalmente, magari potesse sentirsi rinato, puro e disposto a salire alle stelle, ecco, vedete, no? Cioè questa catarsi, no? Questa purificazione, disposto a salire alle stelle, perché ormai si è lasciato alle spalle le tenebre del peccato, del male, del traviamento, insomma, ed è ormai volto al bene. Eccoci qua. Quindi non so chi ascolterà questo mio sproloquio, ma insomma tanto dovevo fare e tanto ho fatto. Dunque, dovrò leggere anche, spiegare anche un po' di Leopardi e di Manzoni, anche se ovviamente questa situazione, anche questa modalità di insegnamento così impone dei tagli e delle semplificazioni, che peraltro io facevo anche prima, quindi adesso ancora di più. Quindi farò insomma, ho già caricato in rete alcuni testi che spero leggerete, o meglio, spero abbiate già letto, farò un paio di altre audio lezioni, dopodiché vi darò un ultimo scritto che riguarda il confronto fra un passo di Manzoni e un passo di Leopardi, quindi così prendiamo due piccioni con una fava. E l'anno prossimo bisogna cominciare dall'Unità d'Italia perché insomma nell'ultimo anno costi quel che costi si comincia con l'Unità d'Italia. Quindi in parole povere Manzoni e Leopardi vabbè, vengono fatti essendo confinati alla fine del quarto anno vengono poi inevitabilmente fatti male in fretta perché è così, insomma, c'è poco da fare, insomma, indipendentemente dal fatto che ci sia la didattica in presenza o a distanza, insomma, presto e bene non sta insieme e quindi a risentirci, ecco.